Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. L'anno finanziario si avvia alla chiusura e come sempre in questi periodi si fanno i bilanci. Quest'anno però il saldo del nostro bilancio sarà inattivo, chi lo sa, forse lo sarà per pochi. All'ordine del giorno di molte famiglie ci sono delle grandi preoccupazioni. Questa è una fine d'anno piuttosto particolare perché per le famiglie italiane si preannunciano sacrifici. Come sapete sono in arrivo tasse su tutto e tutti che si spalmeranno sulla casa, sul risparmio, sui redditi. Quindi, a maggior ragione, se si riesce a risparmiare, occorre farlo al meglio adesso. Occorre fare una buona pianificazione cercando di orientarsi fra la volatilità del mercato, le proposte delle banche, dei promotori finanziari e dei consulenti ai quali ci affidiamo. Ma come si fa ad orientarsi serenamente ora mantenendo anche una certa tranquillità su come abbiamo collocato il nostro risparmio? Chissà in quanti avranno ricevuto l'estratto conto del proprio dossier titoli e avrà avuto una constatazione non proprio soddisfacente del fatto che i rendimenti del proprio portafoglio non sono stati molto brillanti, soprattutto chiaramente se giudichiamo un lasso di tempo non particolarmente lungo. D'altronde le borse sono ancora in discesa, in difficoltà da almeno 5 anni, perché non è che si siano risollevate da quando la crisi dei mutui subprime scoppiata nell'estate del 2007. Le obbligazioni da mesi si comportano in maniera schizofrenica e allora che si fa? Oggi e domani, per parlare di questi temi, Radio 24, lo avrete sentito appunto dalle prime ore di questa mattina, ha attrezzato in modo del tutto particolare il suo palinsesto. Abbiamo già iniziato presto con Alessandro Milan e Oscar Giannino, stiamo concentrando gran parte delle nostre trasmissioni sui temi di attualità, i temi della crisi, la manovra finanziaria e i suoi effetti sulle vostre scelte di risparmio e di investimento. Noi, come sapete, ci occupiamo soprattutto degli impatti non macroeconomici ma microeconomici, vale a dire le ricadute tra famiglie, risparmiatori e piccoli investitori. E quindi oggi ci chiederemo, lo chiederemo ai consulenti che sono a nostra disposizione, come dobbiamo riorganizzare in questo momento il nostro risparmio, come fare un bel check-up alle scelte di investimento in questo momento. Quindi, come si svolgerà questo Radio 24 Day per quello che riguarda quantomeno la competenza di Salva Danaio? Avremo la regolare diretta da qui fino all'1 insieme. Intanto ve li presento subito: Zeno D'Acquarone, presidente di Ascosim, che è la società l'associazione delle società di consulenza indipendente. D'Acquarone, bentornato. Salva Danaio. Buongiorno a tutti. Il segretario generale Massimo Scolari, buongiorno. Buongiorno. E poi abbiamo in diretta telefonica da Londra Francesco Bonichi, tax partner di Allen & Overy, che è un grande studio legale e ci aiuterà per la parte di competenza fiscale sui prodotti di investimento. Dottor Bonichi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Qua. Quindi, prima parte, Salva Danaio nella dimensione, come dire, tradizionale. Poi abbiamo un'iniziativa speciale. Dalle 13 alle 15 sia Massimo Scolari che Zeno D'Acquarone, ma anche altri due professionisti, appunto, si fermeranno e risponderanno alle vostre domande in privato, per cui prendete carta e penna e segnatevi questo numero di telefono, perché potrete telefonare poi in privato, lo ribadisco, 02 46 52 2444, e per 2 ore potrete tormentare appunto con serenità i nostri interlocutori, i nostri professionisti, per fare un confronto con loro sulla gestione del vostro risparmio. Chiaramente dare un portafoglio molto dettagliato è relativamente utile, perché potranno aiutarvi i nostri consulenti solo a darvi, come dire, degli scenari di massima, però anche la loro come dire, disponibilità, la loro consulenza potrà essere utile per capire, anche se non avete capito, che tipo di prodotti di investimento avete in portafogli in questo momento e soprattutto come poterli collocare al meglio prossimamente. Ma non finisce qua, perché dalle 15 alle 16, una volta che ci siamo fatti la maratona in privato, ritorniamo in diretta per un'altra ora con altri ospiti, vi racconteremo che cosa è emerso da queste telefonate in privato e ci riconfronteremo di nuovo anche sugli scenari di investimento, su come potranno andare prossimamente borsa e mercati obbligazionari. Avremo altri ospiti, ve li presenterò più tardi. Mamma mia quanto ho chiacchierato, adesso faccio cominciare sicuramente i nostri ospiti, però per intervenire in diretta questa mattina, il numero è sempre lo stesso, le modalità sono sempre lo stesse, 800 24 00 24. Vedo già moltissimi ascoltatori che sono pronti ad intervenire, 349 238 6666, invece il numero per poterci inviare i vostri messaggi. La borsa stamattina, partiamo anche monitorando quello che accade stamattina sul mercato finanziario, abbiamo un rialzo di circa un punto abbondante sui principali listini europei, che beneficiano intanto di un tentativo di rimbalzo dopo la caduta che si è verificata ieri nella seconda parte della seduta. Per la gran parte della giornata le borse erano andate bene, poi nel pomeriggio ci hanno ripensato, perché Mario Draghi, che ha avuto questa audizione al Parlamento europeo, naturalmente ha espresso ancora preoccupazioni sulle difficoltà dell'Eurozona di riprendere, di risollevarsi, anzi ormai si parla apertamente di una ricaduta in recessione per il prossimo anno, e poi ha detto insomma ancora una volta la BCE non è che può far prestiti a oltranza a tutti, per cui un po' di cautela che al mercato non è piaciuta e che ieri appunto ha determinato poi questo scivolone sul finale. Stamattina invece c'è stato un buon dato dalla Germania, l'IFO tedesco, che ha aiutato gli operatori appunto a ritornare agli acquisti sul mercato azionario. A Piazza Affari molto bene tutte le banche: Popolare di Milano più 5,82, Intesa San Paolo più 4,26, Ubibanca più 3,95, Unicredit più 3,81, più 3 per Mediaset. Invece in discesa abbiamo Campari, Dia Sorin e Enel, che perdono lo 0,3-0,4% circa. Il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e i titoli tedeschi è sceso, stamattina siamo ritornati sotto i 500 punti base, abbiamo toccato anche i 480, per cui si è rialleggerita un po' la pressione che ieri abbiamo rivisto, di nuovo di sopra la soglia psicologica dei 500 punti, però c'è da dire che c'è stato anche questo questa situazione, questa circostanza tecnica per cui è stato modificato il benchmark di riferimento per il titolo decennale italiano, pertanto c'è stata appunto questa, che non vi sto a spiegare, in ogni caso appunto questo ripiombare sopra i 500 punti base è stato determinato anche da questa situazione che era stata preannunciata nei giorni scorsi anche dal Ministero dell'Economia. Vorrei smettere di parlare per cominciare subito a coinvolgere Zeno D'Acquarone, Massimo Scolari e Francesco Bonichi, cominciando appunto con Ascosim, le società di consulenza indipendente. Zeno D'Acquarone, comincio con lei, perché ho spiegato appunto ai nostri ascoltatori la ratio di questa nostra iniziativa che coinvolge tutte le nostre trasmissioni, famiglie preoccupate, dall'anno prossimo sicuramente tutti i risparmiatori, oltre a monitorare borsa, obbligazioni, mercati emergenti e quanto altro, dovranno anche fare due conti dal punto di vista fiscale, perché abbiamo una manovra che ha proposto tutta una serie di interventi sui prodotti di investimento e quant'altro, ma in termini complessivi le chiedo qual è la sua valutazione sulla manovra finanziaria e i sacrifici che gli italiani dovranno fare a partire da gennaio. Cambierà tutta questa rosa di provvedimenti che sono arrivati la propensione al risparmio delle famiglie? La manovra purtroppo ha come primo effetto quello di mettere le mani nelle tasche degli italiani, e lo fa a tutti i livelli, quindi a prescindere dalle distinzioni. L'effetto sulle decisioni di investimento, purtroppo ci troviamo, questo mercato ha presentato una grande novità. Se fino ad oggi avevamo la possibilità di allocare i nostri denari su asset privi di rischio, oggi il concetto di asset risk free non esiste più, e questo direi è una novità drammatica, soprattutto per un popolo di risparmiatori e investitori italiani molto propenso a investimenti privi di rischio, che quindi si trova in questa drammatica situazione di dover scegliere dove allocare i propri denari. Certo, le opportunità di rendimento sono estremamente interessanti, ma dal punto di vista della redditività, ma questo significa, in finanza lo sappiamo, i pasti gratis non ci sono, significa anche rischi. E questo purtroppo è uno scenario al quale non possiamo dare una risposta banale, immediata, ma è ovvio che dipende da quello che sarà l'evoluzione del quadro. E affrontare tutto con un po' di coraggio l'anno prossimo, un po' di pazienza naturalmente, che non ci dovrà mai mancare. Assolutamente sì, direi che in questa fase la pazienza è una virtù che deve essere di tutti, non solo dei santi. Massimo Scolari, vorrei chiedere anche a lei appunto che cosa ne pensa su quello che potrà succedere nell'attitudine al risparmio delle famiglie italiane a partire dai prossimi mesi, già modificato peraltro di recente. Le leggo anche l'ultima fotografia scattata dall'indagine svolta dalla Banca d'Italia sul risparmio delle famiglie italiane, che vengono ancora considerate come particolarmente ricche rispetto a tante altre europee, meno indebitate di quelle di altri grandi paesi del mondo, ma certamente la crisi si è fatta sentire anche per i loro portafogli, e negli ultimi anni molte famiglie hanno dovuto intaccare il proprio patrimonio perché magari con fatica hanno rinunciato allo stile di vita, alle proprie abitudini, per cui il guadagno è rimasto sempre lo stesso, però come dire, le spese sono aumentate, i sacrifici sono aumentati, quindi si è dovuto intaccare il risparmio, ma rimane tuttavia ancora piuttosto alto. Sì, l'indagine della Banca d'Italia è molto interessante perché fa notare appunto che il livello di ricchezza delle famiglie italiane è sempre molto alto, anzi secondo standard internazionali anche a valori anche più elevati di altri paesi europei e anche degli Stati Uniti. Quello che rileva però è che abbiamo visto in questi ultimi 10-15 anni una tendenziale diminuzione della propensione al risparmio delle famiglie, prevalentemente per l'effetto fiscale, cioè progressivamente lo Stato italiano ha introdotto numerose manovre correttive, l'ultima è quella di questo dicembre, che naturalmente intacca la capacità di generare risparmio. Tra l'altro quello che vorrei osservare è che aumentando anche la tassazione sulle rendite finanziarie e sui conti di deposito delle famiglie, evidentemente anche la sfida di ottenere dei rendimenti al netto delle tasse è ancora più difficile. Ovviamente abbiamo quindi un minus fiscale che aumenta, e quindi è ancora più importante selezionare bene i propri investimenti perché vi è un maggiore prelievo fiscale, quindi diciamo la strada comincia a essere più in salita rispetto al passato. Allora vorrei intanto rispondere agli ascoltatori che mi stanno chiedendo di ripetere il numero che sarà possibile fare nel pomeriggio, ripeto l'orario, dalle 13 alle 15 per parlare in privato con i nostri consulenti. Il numero è lo 0246522444, lo ripeto ancora, 0246522444, e per cui potremo più tardi appunto riprendere il nostro filo diretto privato per rispondere alle vostre domande. Francesco Bonichi, Allen & Overy è un grande studio appunto di professionisti nel settore legale e di commercialisti anche, e Bonichi appunto è l'esperto anche per il Sole 24 Ore della tassazione sui prodotti di investimento, su tutte le novità che sono arrivate con la manovra Monti, quella presentata il 4 dicembre, ma anche con tutte le novità che aveva predisposto Tremonti in precedenza con la manovra d'estate, che con quest'ultima misura in qualche maniera sono state cancellate, Bonichi, perché abbiamo avuto di nuovo una riorganizzazione. Qual è secondo lei quella che avrà un impatto maggiore nelle scelte di investimento delle famiglie? Ma intanto credo che, come lei giustamente ha puntualizzato, abbiamo avuto diversi provvedimenti, uno che è andato a uniformare la tassazione dei redditi nell'agosto scorso, e uno di questi giorni che ha introdotto questa, chiamiamola, mini patrimoniale, cioè che non si applica sul rendimento ma si applica sul valore delle attività finanziarie. La coincidenza di entrata in vigore di queste due norme è il 1° di gennaio, per cui sicuramente l'impatto psicologico per il risparmiatore sarà di un cambiamento nella tassazione dei suoi risparmi. Però vorrei magari entrare più nel dettaglio per dare una fotografia un pochino più dettagliata, perché sto ricevendo anche sulle pagine del 24 Ore molti quesiti molto allarmanti, e perché c'è un pochino forse di confusione tra il pubblico. Salva Danaio. Mamma mia, quante telefonate, quanti messaggi ci stanno arrivando questa mattina, ce l'aspettavamo. Allora, prima diretta, adesso fino all'una, 800 24 00 24, per raccontarci le vostre preoccupazioni legate al risparmio, confrontarvi con noi e soprattutto con i nostri consulenti, che sono a disposizione adesso in diretta, poi lo saranno ancora per due ore dalle 13 alle 15, e vi risponderanno al numero 0246522444, e poi torneremo in diretta per commentare tutto quello che è successo nelle tre ore precedenti, dalle alle 15, alle 16. Allora, eravamo rimasti in sospeso con Francesco Bonichi da Londra, che ci stava spiegando di nuovo la rimodulazione dell'imposta di bollo e soprattutto l'arrivo della piccola mini patrimoniale sui prodotti di investimento a partire da gennaio, quando arriverà anche l'altra novità, la riorganizzazione della fiscalità delle rendite finanziarie. Detto questo, prima di farle fare la fotografia che ci ha promesso Bonichi, vorrei sentire, per rifare anche un giro di domande a Zeno D'Acquarone e Massimo Scolari di Ascosim, volevo sentire appunto alcuni ascoltatori per capire un po' che tipo di considerazioni fanno in un momento così delicato, in cui anche la manovra che ci ha apparecchiato il governo Monti ci ha già prospettato un 2012 piuttosto complicato. Enrico da Roma, buongiorno. Enrico? Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Ci dica. Allora, non voglio fare il catastrofista naturalmente, però essendo pensionato ho dei risparmi e come molte persone naturalmente, certo, sto cercando di capire che cosa fare. Una delle cose che ho pensato, seguendovi, leggendo i miei studi, ma non è tanto questo, perché gli economisti ci sono un mare, è quello di in questo momento investire in valuta estera. Nel senso, se io compro dei BTP americani, è vero che non ci guadagno niente, però se... è un po' il ragionamento, come tutta la fuga che si sta facendo dal rischio, e si va sui bund tedeschi perché si considerano delle piccole cassaforti, pur non rendendo molto, Enrico. Sì, però in questo caso si parlerebbe ancora di euro. Ah, beh, quindi certo. Se dovesse uscire dall'euro, io sarei con moneta US o australiani o svizzeri, e se non altro c'è il problema del cambio che potrebbe aiutare. Non voglio, ripeto, fare la sua vista, guardi che la sua riflessione l'hanno fatta milioni di italiani in queste ultime settimane, per cui c'è poco da fare il catastrofista. Siamo molto realisti e ci siamo preoccupati tutti su uno scenario di questo tipo, che molti si sono divertiti a dipingere. A me non ha divertito molto uno scenario di fallimento dell'euro, di ritorno alla lira e quant'altro, però insomma è stata una simulazione che molti uffici studi hanno fatto con grande serietà. Grazie Enrico. Allora andiamo un po' a sentire Zeno D'Acquarone, che cosa ne pensa della propensione all'investimento di questo ascoltatore, che è comunque un pensionato, per cui io immaginavo comunque una persona che volesse assolutamente conservare in maniera molto tranquilla il proprio capitale, il proprio risparmio. D'Acquarone invece, però, per farlo, lui dice, io vorrei approdare su altri lidi fuori dall'Europa. Allora, le decisioni, questa è per, concedetemi la banalità, le decisioni di investimento dovrebbero essere tutte mirate alla ricerca di un rendimento. Invece oggi il meccanismo che sembra guidare parecchi interlocutori, investitori, risparmiatori, è non la ricerca del rendimento, la ricerca della sicurezza, nel timore che possa crollare, diciamo, la valuta di riferimento dei propri risparmi del paese dove si vive, che è l'euro. Allora, con questa dinamica, la ricerca di una diversificazione o è coerente con questa ricerca di protezione, ma attenzione che rischiamo di incappare in un rischio che è quello poi di avere delle minusvalenze, perché per definizione tutti gli investimenti in valuta sono soggetti al rischio valuta. Quindi se uno ha una visione di ricerca di protezione dei propri asset, e quindi è perché ha un timore, una convinzione o una parte del proprio patrimonio la vuole proteggere, e quindi in questo caso non deve guardare al rendimento, perché quella si chiama speculazione su valuta ed è un mestiere difficilissimo anche per noi addetti ai lavori. E quindi se vuole mettere il proprio capitale in protezione, ben venga l'allocazione anche su diverse valute di paesi magari che non hanno oggi problemi dell'eurozona. Diversamente, se si è alla ricerca di rendimenti, allora vige il sano principio della diversificazione, all'interno del quale possono anche convivere quindi le allocazioni su altre valute, ma tenendo ben presente che se siamo abitiamo in un paese a euro, compriamo merci, paghiamo conti in euro e fatture in euro, viene da sé che dovrebbe essere tipicamente l'investimento in una valuta, nella nostra valuta di riferimento, perché tutto ciò che va su altre valute per definizione ha un rischio valuta, oltre ai rischi di mercato che dipendono dagli asset sui quali si va a investire. E poi anche comunque considerando le valute straniere, ci sono valute straniere e valute straniere. Un conto è il dollaro, che comunque alla fine della fiera conosciamo nella dinamica e i fattori che ne condizionano appunto i movimenti e quant'altro. Un conto scegliere magari una valuta di un paese che che sta dall'altra parte del pianeta ed è di più difficile monitoraggio. Massimo Scolari, chiedo anche lei un parere su questo. Assolutamente, sia la scelta della valuta, ma ancora di più la scelta dell'emittente, e quindi anche diciamo della società o dell'obbligazione che si sceglie, è molto rilevante. Non vorrei fare il caso famoso e storico delle obbligazioni argentine, che nacquero proprio come passione durante una crisi che era quella degli primi anni 2000, quando c'era appunto una grossa sfiducia sul nostro mercato, la ricerca di alti rendimenti, i rendimenti dei titoli di Stato erano scesi e ci fu una corsa ad acquistare delle obbligazioni ritenendo che fosse un paese primario, eccetera, e andò come andò. Quindi bisogna stare molto attenti a capire bene quali sono i propri obiettivi. Se gli obiettivi sono di protezione del capitale, come giustamente diceva il dottor D'Acquarone, è corretto anche diversificare i propri investimenti in valute primarie sicure, il dollaro americano, ci sono altre valute primarie che sicuramente possono aiutare la diminuzione della volatilità del portafoglio, naturalmente con la coscienza che questo vuol dire incrementare comunque il rischio, e quindi perché naturalmente tutto ciò che è denominato una valuta diversa dall'euro è pro quota un aumento del rischio di portafoglio, che può comunque avere senso alla luce della necessità. È legittimo che molti abbiano in questo momento insomma questa tentazione di guardarsi intorno. Ecco, però non la vedrei come una necessità di fuga. Ecco, io sinceramente ho molta fiducia nell'euro e nella capacità dell'eurozona di uscire da questa crisi più forte di prima. Quindi ciò non significa che non sia corretto, anzi è senz'altro giusto perseguire sempre la diversificazione del portafoglio, ma non deve essere concepita come fuga dalla casa che brucia, perché non sta bruciando proprio niente. Francesco Bonicchi, adesso le faccio prendere la sua macchina fotografica per scattarci questa foto sulla mini patrimoniale sui prodotti di investimento introdotta dal governo Monti, e che cosa cambia rispetto al superbollo che invece era stato introdotto dalla manovra estiva di Giulio Tremonti. Ma allora, sicuramente, secondo me c'è stato un intervento in termini di maggior progressività. Il sistema costituzionale italiano prevede che l'intero sistema tributario debba improntarsi alla progressività, che significa sostanzialmente che chi più può, più deve contribuire ai bisogni dello Stato. Questa mini patrimoniale è sostanzialmente una modifica dell'imposta di bollo che è sempre esistita. Prima la conoscevamo prevalentemente per i conti correnti e viene confermata nell'importo di 34,20 centesimi per euro. All'anno. 8 euro e qualcosa insomma a trimestre. Sì, a trimestre, esatto. Indipendentemente da come viene inviato l'estratto conto, alla fine il costo annuale è 34,20 centesimi. E viene introdotta un'imposta di bollo anche sui prodotti finanziari, gli strumenti finanziari, e la particolarità è che questa imposta è dovuta anche se i titoli non sono depositati presso un intermediario, e l'imposta annuale è sostanzialmente pari a 1 euro ogni 1000 euro depositati. Per fare un esempio, se noi abbiamo un 10.000 euro di portafoglio paghiamo 10 euro all'anno. Questo per il 2012. Per il 2013 in poi è di 1,5 euro ogni 1000 euro depositati, quindi il calcolo per il risparmiatore è molto semplice. L'1 e mezzo per 1000, infatti. C'è poi un'esenzione per i piccoli risparmiatori, cioè se il cliente è una persona fisica e ha un deposito e una giacenza media annua sotto i 5.000 euro, non si paga nessuna imposta di bollo. Quindi questo, diciamo, è una buona notizia almeno, certo, visto che effettivamente sì, è molto discusso anche sulla scarsa, come dire, progressione, adesso non mi viene il termine, ce n'avevo in mente uno ma mi è sfuggito di testa mentre stavo parlando, in qualche maniera si salvaguardano, si sono adottate anche delle clausole di protezione effettivamente per conti correnti molto modesti, che era assolutamente iniquo che fossero gravati anche di questi 34 euro che ci sono sempre stati, almeno quantomeno diamo questo merito a questo governo che questa piccola azione l'ha fatta. Sì, allora sentirei un altro ascoltatore per continuare la nostra chiacchierata. Gennaro dalla provincia di Reggio Calabria, buongiorno Gennaro. Buongiorno dottoressa, io mi riallaccio all'ultimo intervento fatto dal dottore e anche da lei nella parte finale. non sono molto d'accordo. Cioè, considerata la stangata che è arrivata soprattutto ai piccoli risparmiatori e considerato il poco guadagno che in questi ultimi tempi abbiamo ricevuto, no? Dai prodotti finanziari, questa trattenuta sul deposito titoli non è cosa da poco, è una cosa che incide molto. Allora chiedo, forse per evitare di pagare questo bollo di deposito titoli, considerato che sul conto corrente non è in forma proporzionale in base al valore, forse conviene fare depositare i soldi, toglierli dagli investimenti finanziari fino a quando la situazione non si risana e metterli in questi conto corrente online dove ormai si arriva anche a 4,85 lordo. Gennaro, sa com'è questa? No, possiamo fare un ragionamento complessivo su questa idea che sicuramente attrae molti risparmiatori che hanno rendimenti insoddisfacenti rispetto al proprio portafoglio. Detto questo, come dire, il suo suggerimento impone una riflessione più ampia del tipo: se fino a sei mesi fa alla tassazione sul prodotto investimento neanche ci pensavamo, adesso sicuramente ci imporrà una riorganizzazione forse abbastanza anche drastica in certi casi, perché se addirittura Gennaro pensa di liquidare tutto quello che è in portafoglio per portare tutto in un conto di deposito, chiaramente qua ci si immagina uno scenario che evidentemente complica un po' le cose a questo risparmiatore. Salva Danaio. Allora, Zeno, da Acquarone, ovviamente i professionisti consulenti del risparmio sono un po' indispettiti, passatemi il termine, da una posizione come quella di Gennaro, che posso anche però comprendere, perché lui dice, insomma, magari ho un risparmio abbastanza modesto. Mi scoccia un po' che adesso questa mini patrimoniale lo vada anche ad intaccare, anche se in misura marginale, però io non voglio dare neanche 10 euro allo Stato e preferisco liquidare tutto quello che ho e portarlo sul conto di deposito che effettivamente non viene intaccato dalla nuova tassazione. Allora, Zeno da Acquarone, che chiacchierata facciamo con Gennaro? Well, io intanto il mondo della finanza è bello e vario, per cui possono convivere migliaia di idee di investimento e nell'assoluta libertà di ognuno di prenderle. E certo, la riflessione da fare è questa. Beh, intanto, certo, sui conti correnti abbiamo dei ritorni molto, molto allettanti oggi, in questo momento, e chiediamoci perché sono interessanti. Perché le banche devono fare raccolta, perché non hanno nessun altro modo per farlo. Perché le banche devono fare raccolta e ovviamente offrono dei ritorni molto interessanti, e quindi uno può essere portato a dire, ma in fondo tutto sommato unisco due cose, da una parte evito l'imposta di bollo, dall'altra ho un ritorno tutto sommato senza grandi sforzi, senza bisogno di competenze, suggerimenti, ottengo un buon rendimento. Sì, va bene, però non mi sento di generalizzare, perché mi chiedo sempre, cerchiamo di capire se tutti facessero prendessero queste decisioni, quindi io non posso mai avvalorare una decisione dicendo questa è la cioè, soluzione. Esatto, poi perché, magari facendo una chiacchierata con Gennaro sarebbe, lei potrebbe anche stabilire che per Gennaro è la miglior soluzione possibile. Per no? Gennaro potrebbe essere la miglior soluzione possibile, però mi dico, se tutti lo facessero, benissimo, diciamo che veniamo dalla stragrande maggioranza degli investitori investiti in titoli di Stato, magari italiani, robe varie, significherebbe togliere il sostegno alle finanze dello Stato e diventare finanziatori delle banche. Va bene, però rendiamoci conto che lasciare i soldi sul conto corrente Se la mette giù così cruda. No, è solo perché bisogna sempre ragionare in questi termini. Quindi va bene, però sempre noi siamo continuiamo a ripeterlo. Prendiamo decisioni di investimento coerentemente e soprattutto cercando di capire cosa stiamo veramente facendo. Volevo sentire l'esperto della fiscalità sui prodotti di investimento, cosa pensa della riflessione fatta dall'ascoltatore. So che lei non è un consulente finanziario, naturalmente ragionerà da un altro punto di vista, però è interessante quello che diceva. In termini puramente fiscali, l'imposta fissa che c'è sul conto corrente bancario di 34 euro è fortemente regressiva rispetto alle imposte proporzionali sul conto titoli. Per fare un esempio, l'un per mille che abbiamo visto si applica sul conto titoli, se noi l'applicassimo in termini proporzionali sui depositi bancari, significherebbe colpire con 34 euro un deposito di almeno 340.000 euro, il che vuol dire che se l'ascoltatore ha un deposito titolo di 340.000 euro, evidentemente gli conviene tenere la liquidità su quel conto, almeno dal punto di vista fiscale, perché comunque l'imposta la paga. Mentre se lui ha un conto deposito su cui sono depositati altri titoli, per lui la tassazione è decisamente inferiore, perché è di un euro ogni mille, per cui prima di arrivare a 340.000 euro, insomma, vuol dire, bisogna risparmiare abbastanza. Certo, a 340.000 euro di tassazione. Perché l'un per mille, se l'un per mille, vuol dire che ogni mille euro c'è un euro di imposta. Veramente 34. No, 34.000 euro. Infatti, no, ci eravamo un po' spaventati. 3.400, siamo ancora, no, di meno. Allora, aspettate un attimo, comunque possiamo anche adesso ragionare, certo che fare questi calcoli noi un attimo così su dei piedi diventiamo pazzi anche noi. Detto questo, bisogna avere la pazienza di mettersi seduti con il proprio consulente, con l'impiegato di banca al quale ci siamo affidati fino a questo momento, essere in grado di farci fare una proiezione molto accurata appunto di quanto peserà la nuova rimodulazione della tassazione sul risparmio sui nostri prodotti di investimento, senza che questo vi generi appunto una voglia di fuga da come dire, esercitare nel giro di mezz'ora, perché quello poi sarebbe folle. Possiamo prenderci anche un mese di tempo prima di fare tutte le scelte di investimento del caso. Scolari, magari poi le faccio sentire anche nel frattempo un'altra domanda, così magari ci agganciamo anche a questo. Vorrei sentire Dante da Milano. Dante, buongiorno. Dante? Ma perché scappano tutti gli ascoltatori? No, eccoli qua. Si mettono in viva voce, poi aspettano che noi li chiamiamo. Dante, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Allora, ho quota parte del portafoglio di investimenti in BTP 2033 con rendita del 5,75, pagati 105. In questo momento valgono all'incirca 84. Volevo chiedere un consiglio, se era il caso di mediarli o comunque di venderli, ecco. Dante, allora sentiamo un po' intanto su una scadenza così lunga sul debito italiano che cosa ne pensa Massimo Scolari. Ma vorrei chiedere se è l'unico investimento che ha o fa parte di un giardinetto. Dante, le interessa sapere proprio questo prodotto? Nel portafoglio diciamo che è un 25%. Ah, ok. Ma dunque, in linea di massima io ritengo che l'atteggiamento di mediare i prezzi non sia mai una scelta corretta, nel senso che le decisioni di investimento non dovrebbero dipendere dalle decisioni di investimento prese precedentemente, ma bisogna sempre guardare in avanti e non indietro. Sinceramente quello che a me sembra opportuno osservare è che una scadenza piuttosto lunga, perché si parla del 2033, quindi sono oltre 20 anni, quindi ancorché sia una quota parte dell'investimento, occorre una verifica, una riflessione se l'orizzonte temporale di investimento per quanto riguarda le sue esigenze finanziarie, della sua famiglia, è corretta oppure no, questo indipendentemente dal fatto che siano BTP o quant'altro. Dal lato diciamo del rendimento dell'obbligazione sappiamo che i BTP ovviamente tenuto conto sia della cedola, che è comunque una cedola di tutto rispetto, perché stiamo parlando di un rendimento reale superiore al 3%, e tenuto conto anche dell'effetto di diminuzione di prezzi porta il rendimento a scadenza su valori storicamente molto elevati. Prima di abbandonare un investimento del genere, anzi lei giustamente dice forse lo incrementerei anche, non mi lascerei condizionare più di tanto dal prezzo attuale di mercato e guarderei soprattutto alle esigenze di pianificazione finanziaria della sua famiglia. Fabio, voglio sapere quanti minuti abbiamo ancora, quanti secondi anzi mi rimangono, se riesco a fare. Ho ancora 3 minuti di tempo, volevo solamente rassicurare Bonichi sul conteggio che abbiamo fatto, anzi se volesse rassicurarci sulla tassazione che ci ha proposto per quel portafoglio così un po' all'impronta costruito prima. Bonichi. Sì, volevo solo aggiungere una cosa sulle aliquote, nel senso che dal 1 gennaio la tassazione sarà sempre del 20% sugli interessi, sia da deposito bancario che da titoli obbligazionari eccetera, per cui da quel punto di vista c'è una sostanziale uniformità nel trattamento fiscale. Benissimo. E Zeno d'Acquarone, certo che negli ultimi 5 anni avete avuto un bel pelo sullo stomaco anche voi, ce l'hanno avuto tanto i risparmiatori, ma anche voi, voglio dire, a dare dei suggerimenti di investimento, come dire, azzeccati, ne avete azzeccati tanti, sbagliati tanti, insomma com'è andato, che bilancio ci fa? Sono 5 anni che siamo in trincea, partiamo dal 2007, E per vari motivi, la crisi del 2008, rendimenti sull'obbligazionario storicamente bassi, qui per i professionisti che siano consulenti, gestori, promotori, deliberare rendimenti è stato molto difficile, soprattutto per un parterre di clientela come quello italiano, che è un cliente tipicamente poco propenso al rischio. Mettiamoci la volatilità dell'azionario che mette a dura prova i nervi e si capisce quanto sia duro il mestiere, con la differenza fino ad oggi avevamo molte difficoltà per esempio sulla parte obbligazionaria a generare rendimenti perché i tassi erano molto, molto bassi e quindi era proprio bisognava per gioco forza andare su altri mercati, su altri asset per cercare extra rendimento. Adesso siamo in una situazione dove le opportunità di rendimento sono elevatissime perché abbiamo pensiamo a titoli di Stato italiano quanto rendono, sono rendimenti stellari, cioè, rispetto a un Bund tedesco stiamo parlando di 5-6 volte negativi, no? 5-6 esatto, quindi figuriamoci, è una manna dal punto di vista delle opportunità. Pensiamo all'azionario, alle valutazioni che abbiamo su società ottime, fantastiche. La dovevo chiamare per fare lo sponsor del BTP Day. È vero, mi riesce bene. No, ma però è ovvio che bisogna convivere. Oggi abbiamo grandi opportunità. Ecco, da maneggiare da maneggiare con cura. Ah. Fare scelte, come sempre, pensarle mille volte prima di farle, e quando uno le fa poi rimanere coerenti, perché sappiamo se ci si mette a inseguire il mercato o si comincia a guardare indietro e dirsi mannaggia perché ho fatto sta scelta, sono una scelta fatta, vuol dire che alla base c'era qualcosa di sbagliato. L'erba del vicino è sempre più verde. Allora noi ci dobbiamo fermare perché la diretta è terminata. Adesso però, per tutti gli ascoltatori che non abbiamo accontentato, avete questa opportunità, chiamate lo 0246522444, abbiamo 4 consulenti a vostra disposizione per le prossime 2 ore e io vi racconterò che cosa è successo a partire dalle 15 in diretta. Di nuovo a più tardi. Salva Danaio.